Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. All of my life I've been waiting for you. Tear down the walls, I'll take everything. And I'll show you all of the things we can do. Don't make a sound, don't say anything. Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il cambiamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. Parleremo di rifugi e di tecnocrazie, di ideologie e pratiche dello sviluppo, di animali liberi, di orsi sloveni, degli effetti concreti della caccia. La ricetta della settimana e la colonna sonora sono a cura del nostro tosco vegan chef, nonché DJ, Gabriele Palloni. Sono così pieno di gratitudine. Non sento di essere migliore rispetto agli altri attori nominati o a chiunque altro in questa stanza, perché condividiamo lo stesso amore per il cinema. E questa forma di espressione mi ha regalato una vita straordinaria. Non so dove sarei senza il cinema, ma penso che il dono più grande che ha dato a me e a molti di noi sia l'opportunità di usare la nostra voce per i senza voce. Ho pensato a lungo ad alcune delle questioni pressanti che fronteggiamo come collettività. Penso a volte che sentiamo o ci fanno sentire che lottiamo per cause diverse, ma per quanto mi riguarda vedo una comunanza. Penso che, sia che parliamo di diseguaglianza di genere, o razzismo, o diritti LGBT, o diritti degli indigeni, o degli animali, stiamo parlando della lotta contro l'ingiustizia. Stiamo parlando della lotta contro l'opinione che una nazione, un popolo, una razza, un genere, una specie abbia il diritto di dominare, usare e controllare un'altra impunemente. Penso che siamo così disconnessi dalla natura, con un punto di vista egocentrico, e saccheggiamo la natura delle sue risorse. Ci sentiamo in diritto di inseminare artificialmente una mucca e di rubare il suo vitellino, anche se le sue grida di angoscia sono inconfondibili. E poi le prendiamo il latte fatto per il suo vitello e lo mettiamo nel caffè e nei nostri cereali. Temiamo l'idea di cambiamento personale perché pensiamo che dobbiamo sacrificare qualcosa, rinunciare a qualcosa. Ma gli esseri umani, al loro meglio, sono creativi e ricchi di immaginazione. E possiamo creare, sviluppare, applicare sistemi di cambiamento benefici per tutti gli esseri senzienti e per l'ambiente. Sono stato una canaglia per tutta la mia vita. Sono stato egoista e a volte persino crudele. Un collega difficile con cui lavorare, e sono grato a coloro fra di voi che mi hanno dato una seconda possibilità. Ed è lì che viene il meglio dell'umanità, nel supportarsi l'un l'altro, non quando ci annulliamo a vicenda per i nostri errori passati, ma quando ci aiutiamo a crescere, quando ci aiutiamo a vicenda, quando ci guidiamo l'un l'altro verso la redenzione. Quando aveva 17 anni, mio fratello scrisse questo testo: correre in soccorso con amore e la pace ne seguirà. Così parlò Joaquin Phoenix il 9 febbraio 2020 alla cerimonia di premiazione degli Oscar, tenendo in mano la statuetta appena ricevuta per la sua interpretazione nel film Joker, di Todd Phillips. Qualche giorno dopo l'attore diede seguito al suo pronunciamento, così fortemente antispecista, oltre che antirazzista ed egualitario, e si presentò a un macello nei pressi di Los Angeles, il Manning Beef. Phoenix si fermò a parlare con il proprietario del macello, Anthony Di Maria, e c'è un filmato che riprende la scena. Alla fine si vede l'attore, in accordo con Di Maria, che porta via una mucca, Liberty, e il suo vitello, il piccolo Indigo. Una liberazione fatta per conto dell'associazione Los Angeles Animal Save. La mia speranza, disse Phoenix in quella circostanza, è che mentre guardiamo crescere il piccolo Indigo con sua madre Liberty al Farm Sanctuary, ricorderemo sempre che le amicizie possono emergere nei luoghi più inaspettati e indipendentemente dalle nostre differenze. La gentilezza e la compassione dovrebbero governare tutto ciò che ci circonda. Tutto questo per dire che Joaquin Phoenix sa di che parla quando interviene sul trattamento riservato agli animali in giro per il mondo, sulle loro gioie e, più spesso, le loro sofferenze. Dovremmo quindi prendere nella dovuta considerazione le sue parole, venute dall'altra parte dell'oceano, a proposito di un fatto che ci riguarda da vicino: l'esecuzione di 9 maiali nel rifugio Cuori Liberi di Sairano, in provincia di Pavia. Un'esecuzione avvenuta la settimana scorsa e motivata con ragioni sanitarie, per frenare cioè l'epidemia di peste suina. È un fatto che ha suscitato una vasta indignazione e le proteste delle associazioni animaliste, ma anche di Amnesty International, per le modalità di intervento della polizia. Phoenix dunque ha scritto così in un suo messaggio: quello che è successo a Cuori Liberi è vergognoso e terrificante. Tutti i maiali del santuario italiano sono stati uccisi dallo Stato e dalle autorità. I veterinari che dovrebbero salvare vite li hanno portati via senza compassione. È un giorno di lutto e tristezza. Questo atto disumano non deve rimanere in silenzio. Il mio pieno sostegno va a tutti coloro che per 2 settimane hanno difeso la vita e la libertà. Siamo con tutti voi. Sta dunque sostenendo le mobilitazioni in corso, che sono numerose, con incontri, assemblee, sit-in, in difesa in particolare dello speciale status giuridico riservato ai rifugi e agli animali che vi sono ospiti, individui che sono sottratti alla terribile classificazione che fa di loro confratelli destinati all'alimentazione, delle vite che possono essere uccise con noncuranza e nel caso sterminate a causa di un'epidemia. Una mobilitazione nazionale è prevista per il 7 ottobre a Milano, mobilitazione che ha per titolo appunto Giù le mani dai santuari ed è organizzata dalla rete dei santuari degli animali liberi in Italia. Sentiamo a questo proposito Marco Reggio. Sabato 7 ottobre a Milano la rete dei santuari di animali liberi ha lanciato un corteo nazionale in difesa dei rifugi e dei santuari antispecisti e per denunciare i fatti del 20 settembre al rifugio Cuori Liberi di Sairano. Si trattava, come è noto, di maiali salvati dallo sfruttamento, sottratti al circuito dell'industria suinicola, Industria Suinicola, che è la responsabile di fatto di questo intervento, in qualche modo, perché ricordiamo che l'ordinanza di sequestro del rifugio deriva dai focolai di peste suina africana, una malattia altamente contagiosa e letale nei suini, nei maiali cinghiali, per cui c'erano stati diversi focolai nel pavese. Di fronte a questo tipo di emergenza, la soluzione dell'autorità è quella del cosiddetto stamping out, cioè l'abbattimento di tutti i maiali sani e malati. E questo non risparmia, a quanto pare, anche quei luoghi in cui i maiali in realtà non sono detenuti per poi essere uccisi e mangiati per scopi economici, ma in realtà per essere curati. Per questo la manifestazione del 7 ottobre a Milano porrà l'accento proprio sui mandanti, cioè su quella filiera suinicola, che in Italia alleva oltre 8 milioni di maiali, in Lombardia in particolare ne concentra circa la metà, 4 milioni, che ha portato a 33.000 abbattimenti nella sola provincia di Pavia in questo periodo, in un mese sostanzialmente, e che non esita a colpire i rifugi. Questo settore in qualche modo è anche il mandante di un attacco più generale ai rifugi antispecisti, in particolare quelli lombardi, che sono stati raggiunti da ordinanze di sequestro, diciamo così, preventivo e da una circolare che sostanzialmente le mette sotto controllo assoluto molto maggiore di quello dato dalle misure di biosicurezza che vengono applicate agli allevatori. Per tutti questi motivi saremo in piazza quindi sabato 7 ottobre a Milano alle ore 14. Aggiornamenti sul luogo del concentramento e altre informazioni, possono essere cercate sui social e sulle pagine della rete dei santuari di animali liberi. Negli ultimi mesi abbiamo parlato spesso, quasi a ogni puntata, della guerra agli orsi scatenata in Trentino dalla provincia autonoma e dal suo presidente, Maurizio Fugatti. Una guerra dai contenuti principalmente ideologici e propagandistici, ma coperti in qualche misura da ragioni tecnico-scientifiche, attraverso concetti quali la pericolosità intrinseca di questo o quell'individuo o la gestione della popolazione di orsi. Rispetto a quest'ultimo punto sono anche girate cifre di supposti limiti massimi di capienza del territorio, cifre che servono principalmente a legittimare l'obiettivo politico di chi ne fa uso, eliminare fisicamente un certo numero di orsi e così esibire il proprio potere, che nel dare la morte, per definizione, esibisce la sua massima forza. La situazione trentina, da questo punto di vista, non è molto diversa da quel che avviene nella vicina Slovenia, dove si opera con minore vigore propagandistico nella stessa logica di gestione, detta scientifica, della popolazione di orsi. Anche in Slovenia, quindi, le autorità politiche non mancano di esercitare il proprio potere di dare la morte e nei mesi scorsi hanno deciso l'uccisione di ben 230 orsi bruni, che sarebbero di troppo, secondo le rilevazioni e le osservazioni delle autorità preposte alla cosiddetta gestione faunistica. Nozione tipicamente tecnocratica di amministrazione del territorio. La notizia allora è che il Tribunale amministrativo sloveno ha respinto il ricorso presentato dall'organizzazione ambientalista Alpe Adria Green contro la decisione del Ministero delle Risorse Naturali, che aveva autorizzato l'eliminazione dei 230 orsi. L'eliminazione era stata decisa il 13 aprile scorso ed era già cominciata, salvo essere poi sospesa nel mese di maggio per il ricorso. Il Ministero ha specificato a tutte le parti coinvolte che la sentenza è definitiva e quindi non c'è più spazio per ipotesi di ricorso e sospensive. La mattanza può andare avanti, visto che sono già stati eliminati con armi da fuoco 182 orsi. Secondo il Ministero, si arriverà alla quota prevista, 230, entro la fine dell'anno. È una mattanza, questa, che a nostro avviso mostra il reale stato dei rapporti fra la società degli umani e i suoi attuali poteri e gli altri animali. Un rapporto guidato da una logica suprematista e ancorata a nozioni che hanno a che fare con logiche di dominio, ma impediscono ogni dibattito grazie all'etichetta di cui si giovano, l'etichetta di scientificità, quindi secondo una vulgata più che discutibile di oggettività e neutralità. Si tratta in realtà di questioni culturali, politiche, quindi ideologiche, e perciò il primo passo da compiere per cambiare l'ordine delle cose e lavorare alla costruzione di un nuovo paradigma sarebbe svelare questo blocco ideologico, superarlo e aprire un dibattito serio, un dibattito fra l'altro sempre più necessario in un'epoca di crisi climatica, quindi ecologica ed esistenziale, come la nostra. Nel nostro piccolo stiamo lavorando in questa direzione e non nascondiamo la nostra tristezza e amarezza per l'ottusa determinazione delle autorità tecnocratiche e politiche della Slovenia. Come sa bene chi abita in campagna o anche ai margini delle città, visto che la pratica venatoria è ormai una minaccia incombente quasi ovunque, in un territorio fortemente antropizzato qual è l'Italia, questi sono i giorni di apertura della caccia o anche di preapertura, secondo la vile pratica introdotta da molte amministrazioni per dilatare i già ampi calendari venatori. Cominciano quindi a fioccare immancabilmente le notizie sui cosiddetti incidenti venatori, che altro non sono in realtà che il prezzo sociale e umano che ogni anno, con rigida regolarità, siamo chiamati tutti e tutte a pagare. La prima notizia sui costi umani della caccia, ogni anno contabilizzati con alcune decine di persone colpite fra morti e feriti, viene dalla provincia di Arezzo, in Toscana. Una bambina di 3 anni è stata colpita da alcuni pallini sparati da un gruppo di cacciatori che si trovava a circa 200 metri da un'abitazione nella frazione di Patrignone, alle porte della città. Mentre la bimba giocava in giardino, improvvisamente si è messa a piangere. Aveva bruciore e dolore a una guancia. I genitori si sono ovviamente allarmati e hanno chiamato un'ambulanza che ha portato la bambina al pronto soccorso di Arezzo per un controllo. La guancia, per fortuna, non ha avuto conseguenze gravi, ma si tratta di un caso evidentemente grave e inquietante, vista la vicinanza degli spari e visto che la bambina si trovava apparentemente al sicuro nel giardino di casa. Sul posto sono intervenute ovviamente le forze dell'ordine e la famiglia sta preparando una denuncia per lesioni colpose. Resta ovviamente in evasa la necessità di applicare anche in questa materia, cioè la caccia, l'ideologia securitaria che tanto piace in altri ambiti. Se la sicurezza fosse davvero la priorità, anche in ambito venatorio, dovremmo avere per i cacciatori limiti e vincoli più rigidi e più estesi. Dovremmo aumentare le distanze obbligate dalle abitazioni. Dovremmo restringere il campo di azione dei cacciatori, una minoranza armata che in quanto tale andrebbe limitata e contenuta, ma che invece riesce a spuntare regolarmente protezioni e vantaggi, grazie a una capacità di lobbying che si rivela efficace in modo del tutto trasversale alle diverse aree politiche. Comunque sia, il bollettino di guerra della stagione venatoria è cominciato e consigliamo a tutti, vista la timidezza, chiamiamola così, delle autorità pubbliche, a essere molto prudenti e a non fare affidamento sul buonsenso dei cacciatori. Serge Latouche, il sociologo e filosofo francese teorico della decrescita, ha scritto una volta, ormai molto tempo fa, nell'ambito della sua visione critica dell'ideologia e della pratica del capitalismo, che la nozione di sviluppo sostenibile è un ossimoro, nel senso che il concetto di sviluppo nella società presente implica predazione e distruzione di risorse, pratica di per sé insostenibile, in quanto irrimediabile. Qualcosa di simile ha detto a suo tempo Wolfgang Sachs, con la sua scuola, con un libro memorabile uscito nel 1992, Dizionario dello sviluppo, una guida critica ai principali concetti del paradigma dello sviluppo che è ancora attualissima. Ebbene, tutte le contraddizioni e le ipocrisie di questa nozione, ormai consolidata, appunto, di sviluppo, sono in questa fase storica coperte ed edulcorate con l'uso pervasivo e salvifico dell'aggettivo sostenibile. È un modo questo per concedere qualcosa ai critici, per riconoscere gli innegabili effetti inquinanti e distruttivi delle produzioni e dei consumi crescenti, ma per dire al tempo stesso che è possibile continuare con le stesse pratiche utilizzando solo alcuni accorgimenti per ridurre l'impatto delle tecniche di estrazione e delle distruzioni e dell'inquinamento conseguenti. Si tratta evidentemente di una forma più o meno raffinata di greenwashing. Un esempio di questa pratica lo sta applicando la FAO, la principale organizzazione internazionale che si occupa di cibo e alimentazione, con riguardo all'impatto degli allevamenti di animali, i quali non sono solo strutture concentrazionali spaventose, nelle quali le vite altrui vengono trattate come oggetti, ma anche una delle principali cause delle emissioni di gas climalteranti. Tutti gli studi sui cambiamenti climatici dimostrano che l'obiettivo di una comunità internazionale consapevole e sinceramente proiettata verso la costruzione di un futuro almeno sopportabile dovrebbe essere quello di chiudere questi allevamenti e impostare il tema dell'alimentazione su nuove basi, abbandonando il vicolo cieco in cui siamo finiti sulla spinta del consumismo e di quell'ideologia che una sociologa nota anche in Italia, come Melanie Joy, ha chiamato carnismo. La FAO, ecco il punto, sta promuovendo l'idea degli allevamenti intensivi sostenibili, quindi facendo ricorso a questa parola magica, con una conferenza mondiale sulla trasformazione sostenibile degli allevamenti di bestiame, una conferenza che è in corso a Roma. L'obiettivo della sessione di lavoro, secondo la FAO, è quello di mettere in campo percorsi innovativi per produrre in modo efficiente alimenti di origine animale più nutrienti, sicuri e convenienti, e allo stesso tempo ridurre l'impronta ambientale, puntando a mezzi di sussistenza resilienti. Come si vede, non si parla di ridurre i consumi di carne, di riconvertire gli allevamenti, e quindi la stessa filiera agricola che ha alle spalle degli allevamenti, ed è la principale responsabile, non dimentichiamolo, della deforestazione dell'Amazzonia, il cosiddetto polmone verde del mondo, che viene sacrificato per lasciare spazio a pascoli nei quali seminare soia da destinare all'alimentazione animale, in un circuito distruttivo e senza ritorno. La FAO, purtroppo, in questa fase storica è prigioniera del pensiero magico della sostenibilità e non sembra all'altezza della gravità dei problemi ecologici presenti. C'è un blocco culturale profondo che deve essere affrontato, liberando il pensiero verso nuove visioni, nuove idee, nuove politiche. Gabriele Palloni, autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, come ogni settimana ci propone una sua ricetta rigorosamente non violenta. Questa settimana gli abbiamo chiesto di ispirarsi a una figura animale di riferimento per tutti noi, i gatti. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Per la ricetta di ispirazione felina di oggi, peschiamo nella memoria da un famoso cult o scult degli anni Ottanta, The Little Blue Gay, dove a suon di sgassoni di Thomas Millian, Bombolo rende celebre lo spezzatino alla gattara. Nel film il personaggio utilizza una scatoletta di cibo per gatti. Io, per vostra fortuna, ve lo propongo in versione vegetale. Gli ingredienti per lo spezzatino alla gattara per 4 persone sono 150 g di straccetti o bocconcini di soia disidratata, 1 litro di brodo vegetale, 1 litro di latte di avena, un bicchiere di vino bianco, 2 porri, un cucchiaio di farina di riso o amido di mais, un ciuffetto di erba cipollina, olio extravergine di oliva, sale e pepe bianco. Fate bollire la soia disidratata nel brodo vegetale per circa 15-20 minuti. Quindi scolatela e lasciatela intiepidire. Successivamente, con l'aiuto di uno schiacciapatate, strizzate bene i bocconcini per far fuoriuscire tutto il liquido. A parte, affettate i porri e fateli scottare in un tegame con mezzo bicchiere di brodo vegetale. Quando questo si sarà ritirato, aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine e fate soffriggere per qualche minuto. Unite la soia e fate andare ancora per qualche minuto. Sfumate col vino bianco, aggiustate di sale e pepe. Quindi coprite con il latte di avena, conservandone mezzo bicchiere. Fate cuocere a fuoco lento fino a quando il liquido si sarà ben ritirato. Stemperate la farina di riso o l'amido di mais nel rimanente latte di avena e versate nel tegame. Lasciate addensare e togliete dal fuoco. Guarnite con l'erba cipollina tritata e un filo di olio extravergine a crudo. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Gabriele Palloni, Roberta Marino, Francesco Panier, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.